Luna. Oh, mare mia, la luna, là, de fora, non me lassa dormì. La luna me innamora. La se bianca e valia sul specio del fondao. De quella gran frescura il cuor s'è innamorao. Il sangue sa, me boge, me canta in ogni vena la dolce cantilena de tante, tante voce. La luna.